Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera cari ascoltatori, benvenuti a Smart City. È vero che i veicoli elettrici hanno emissioni inferiori a quelli a benzina e diesel? Beh, se ci limitiamo a quel che esce dal tubo di scappamento è evidente come non ci sia partita. Tuttavia, se si approfondisce l'analisi e si amplia il perimetro di osservazione, è altrettanto evidente come sia necessario considerare le emissioni dovute alla produzione dell'energia elettrica con cui si caricano le batterie, nonché anche all'energia necessaria prima a fabbricare e poi a smaltire le batterie, appunto, dei veicoli elettrici. Intorno a questi ultimi aspetti si è sviluppato un dibattito acceso, dove la tesi di alcuni evidentemente è che, fatti tutti i conti, il vantaggio offerto dalla motorizzazione elettrica si riduca fino ad azzerarsi o addirittura a peggiorare il bilancio delle emissioni. Solo pochi mesi fa anche al sottoscritto è capitato di partecipare a un convegno nel quale si cercava di dare sostegno a queste idee. E allora cerchiamo di fare chiarezza a partire da uno studio pubblicato da RSE, Ricerca Sistema Energetico, che è certamente l'ente di ricerca più titolato, almeno in Italia, a fare questo tipo di valutazioni, ente che ha da pochissimo pubblicato un dossier intitolato Auto elettrica e decarbonizzazione, di cui abbiamo in linea il coordinatore nonché responsabile dell'unità che presso RSE si occupa degli studi di Life Cycle Assessment, Pierpaolo Girardi. Buonasera Girardi. Buonasera. Allora, partiamo dalla questione carburante, chiamiamola così, che in un caso sarà benzina e diesel, nell'altro sarà l'elettricità che io butto dentro al veicolo, la quale può avere, diciamo, alle spalle delle emissioni di CO2. Ecco, è possibile che queste emissioni superino quelle del benzina e del diesel? Cosa dicono le vostre valutazioni? In realtà no, non la superano, soprattutto se consideriamo auto che sono simili per potenze e prestazioni. Diciamo che la produzione di energia elettrica in Italia ad oggi ha un'emissione di CO2 equivalente di circa 450 grammi a kilowattora, quindi l'energia che entra in una macchina per percorrere 100 km produce un'emissione di circa 80 grammi di CO2 equivalente, mentre percorrere la stessa distanza con un'auto diesel o benzina avremo delle emissioni di 130 o quasi 150 grammi di CO2 per 100 chilometri. Ecco, l'Italia però è anche un paese che ha un mix favorevole dal punto di vista energetico, parecchie rinnovabili e molto gas. Se facciamo un caso diverso, quello della Polonia per esempio, 70% di energia elettrica prodotta col carbone, questo rapporto si inverte? Il rapporto non si inverte, ma ovviamente le prestazioni si avvicinano molto. È uscito di recente uno studio nel 2018 pubblicato su una importante rivista internazionale che appunto confronta auto elettriche e auto a combustione interna, e anche nel caso polacco, caratterizzato da questo mix particolarmente sfavorevole, forse il più sfavorevole in Europa, le auto elettriche hanno dimostrato di avere un vantaggio rispetto alle auto convenzionali. Benissimo, e abbiamo messo da parte il primo punto. Adesso ragioniamo invece sull'altro aspetto controverso, cioè l'energia che mi serve per costruire queste batterie, che sono degli oggetti abbastanza, appunto, energivori, e poi per smaltire queste batterie. Qui che cosa succede? Rimane questo minore impatto del veicolo elettrico o le cose cambiano? Allora, anche in questo caso, secondo i nostri studi, anche considerando quindi il ciclo di vita della batteria di cui è dotata un'auto elettrica, le prestazioni del veicolo elettrico rimangono migliori rispetto a quelle delle auto convenzionali. E questo ovviamente è soggetto a una maggiore variabilità, nel senso che le tecnologie che si stanno sviluppando per le batterie sono diverse le chimiche, ma sia il nostro studio sia una serie di altri studi internazionali hanno dimostrato che comunque il contributo aggiuntivo dovuto alle batterie non è tale da compromettere l'ordine di preferenza. Sì. Benissimo, e ricordiamo che anche qui dipende poi da dove sono prodotte queste batterie e con quale mix energetico sono prodotte. Su questo ci torniamo dopo. Parliamo di un altro aspetto, tra l'altro molto di attualità, che è quello delle polveri. Sappiamo che comunque i nuovi diesel ne mettono abbastanza poche dal tubo di scappamento, per cui si dice: ma lì non cambia niente, è vero? Allora, diciamo, le polveri attualmente emesse dalle auto omologate, diciamo adesso, quindi in questi giorni, sia diesel che benzina, dal tubo di scappamento sono molto basse. Sono rilevanti ormai le polveri che sono emesse per attrito, quindi ruote, asfalto e freni. Diciamo che l'auto elettrica rispetto alle auto convenzionali, oltre a non emettere quel poco particolato dal tubo di scappamento, ha anche il vantaggio di usare praticamente per nulla i freni, e quindi un terzo della componente di emissioni di polveri sottili da attrito nell'auto elettrica è quasi nulla. Certo, perché si frena, diciamo così, magneticamente per ricaricare le batterie. E quindi... Esattamente, quando io tolgo il piede dall'acceleratore l'auto sta già frenando, in molte auto si aggendono già gli stop, giusto per renderci conto, certo, di cosa stiamo parlando. In più, le auto a combustione interna, in particolare i diesel, hanno comunque un'emissione residua di ossidi di azoto, che è un gas che contribuisce a formare il particolato in atmosfera. Quindi anche se emettono molte meno emissioni di particolato, emettono alcuni gas che tutti insieme contribuiscono a formare quello che viene chiamato particolato secondario. Dunque, Gerardi, una cosa che voi sottolineate inoltre nel vostro studio è che spesso i confronti tra elettrico e benzina vengono fatti assumendo delle metriche che penalizzano l'elettrico. Assolutamente sì, non so se in buona o in cattiva fede, spesso vengono considerati consumi non corretti, ovvero i consumi legati ai vecchi cicli di omologazione, vengono considerate durate delle vite basse, intorno ai 150.000 km o anche meno, che vuol dire sfavorire un'auto come quella elettrica che concentra i suoi impatti nella costruzione, certo, mentre poi nell'uso ne ha pochi, e poi alcuni considerano anche scenari improbabili di sostituzione di batterie, cosa che non è detto che avvenga, oppure scenari di mix energetici totalmente fuori dal vero sia adesso che in prospettiva. In prospettiva, perché la quota di rinnovabili inevitabilmente aumenterà, e soprattutto tutti gli studi scientifici vanno nella stessa direzione. Tutti gli studi scientifici vanno nella stessa direzione, ovvero che le auto elettriche comportano un vantaggio non solo per l'inquinamento, ma anche per le emissioni di anidride carbonica equivalente. E insomma, conti alla mano, diciamolo, la tesi dell'elettrico che non riduce le emissioni non regge, nemmeno negli scenari più pessimistici, e quindi gli aficionados del motore a combustione di questo si dovranno fare una ragione. Io la ringrazio, Gerardi. Arrivederci, grazie a lei. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani.